Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutti da Debs e Frey, ben ritrovate e ben ritrovati con Vallone, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, all'ultima puntata di questo 2019. Un 2019 Debs è piuttosto ricco, direi. Sì, devo dire che è stato una fine 2019 piuttosto importante e piuttosto ricca. Come ben sapete, la nostra stagione è ripartita da settembre 2019, che ci ha visto impegnate e impegnati con un calendario civile abbastanza ricco. Siamo sempre state molto critiche sulle ricorrenze mainstream, ma queste non le abbiamo potuto fare a meno. E le nostre fatiche sono state infatti concentrate su 89, il muro di Berlino, per esempio, che ci ha occupato con tantissime puntate, e tra gli ultimi anniversari Piazza Fontana. E all'interno del tema Piazza Fontana toccheremo anche uno dei consigli bibliografici di questa puntata. Infatti la puntata di oggi, come da tradizione, sarà dedicata ai consigli che vi diamo per le letture durante le vacanze di Natale, giusto? Assolutamente, assolutamente, il nostro appuntamento fisso prima delle vacanze estive, prima delle vacanze invernali. Daremo una serie di suggerimenti di lettura con i libri che naturalmente a carattere storico, cioè o di ambientazione storica, o che raccontano la storia, o anche saggi storici che più ci sono piaciuti nell'arco di quest'anno. Alcune sono delle nuove edizioni, altre delle ristampe, però li trovate tutti in libreria ad oggi, ecco. Esatto, cercheremo infatti di spaziare tra cose più utili per gli addetti ai lavori e anche per un pubblico di lettori e lettrici di più ampio respiro. Ma prima di iniziare annunciamo anche delle novità musicali che speriamo vi accompagnino il prossimo anno, e prima appunto di iniziare questa carrellata di consigli, vai Frey. Allora, il disco che vi proponiamo per questa puntata è un disco che a me è piaciuto molto, naturalmente, e altrimenti non ve lo suggerirei. No, è proprio un bel disco. Si tratta del Best of di Billy Bragg, il cantautore del movimento operaio britannico, che ha prodotto questo disco quest'anno con le registrazioni della BBC dal 1983 al 2019. Noi avevamo ascoltato Billy Bragg qualche anno fa nella puntata che avevamo dedicato ai ferrovieri, che trovate insieme a quella che va in onda oggi sul nostro sito www.radiovallun.info. E direi che prima di mettere la canzone, però, un paio di testi ve li suggerisco subito. Allora, Debs aveva citato Piazza Fontana, ci siamo occupati dell'anniversario di Piazza Fontana la scorsa settimana con una puntata apposta. Abbiamo lasciato volutamente un po' in ombra, fra virgolette, la figura di Giuseppe Pino Pinelli, l'anarchico suicidato, fra virgolette, alla questura di Milano nella notte fra il 15 e il 16 dicembre del 1969. L'avevamo lasciata un po' in ombra non perché non lo giudicassimo importante, anzi, ma perché in questa puntata volevamo dare una prima segnalazione di un bel libro che è uscito adesso dedicato alla figura di Pinelli, che è il libro di Paolo Pasi. È un giornalista del TG3 che abbiamo avuto già ospite qua in trasmissione con il libro Antifascisti senza patria, che in occasione dell'anniversario ha scritto Pinelli, una storia, pubblicato sempre dalla casa editrice Eleutera. È un'anticipazione perché con Paolo Pasi chiacchiereremo più avanti, quando sarà qua a Bologna per la presentazione che sarà al Circolo Anarchico Berneri, ma ne parleremo per tempo. Innanzitutto ci è sembrato utile suggerirvelo perché è una bella maniera per raccontare la strage di Piazza Fontana e per ricordare una delle vittime legate a questa storia. E è importante parlare di Pinelli anche perché racconta il volto, un altro dei volti violenti e repressivi dello Stato che spesso si dimenticano. Anche per questo libro Paolo Pasi si accompagna a Fabio Santin, un illustratore e disegnatore anarchico che era già comparso in Antifascisti senza patria, e per cui è un bel libro per restituire la dignità di politico, di militante, di rivoluzionario a Pino Pinelli. Non è stato solo una vittima, è stato una vittima, ma è anche stata una persona che ha combattuto nell'arco della sua vita. Prima di andare in musica vi lascio un'altra segnalazione di un'altra persona che ha combattuto, pur anche lui senza le armi, perché come diciamo sempre le forme di resistenza sono tante, non solo quelle della montagna, anche se in questo caso siamo un po' a cavallo. Il 2019 è stato l'anno dell'anniversario, del centesimo anniversario della nascita di Primo Levi, un grandissimo scrittore italiano, e È inutile citare Se questo è un uomo, La tregua, però se andate sul sito Doppio Zero, che è un bellissimo sito di letteratura, hanno dedicato per questo anniversario un dizionario Levi con tutta una serie di parole dedicate a questo autore. Quella che più ci ha colpito, anche se forse proprio per la sua originalità, è quella che trovate alla voce 8 settembre e la resistenza. Perché ricordiamo sempre una cosa, naturalmente abbiamo detto prima, ok, Primo Levi non ha resistito combattendo, ma ha resistito sopravvivendo e ha continuato a resistere parlando della sua esperienza di deportato. Ma Primo Levi è stato fermato per la prima volta in quanto partigiano. La sua è stata un'esperienza di partigiano combattente molto breve, ma è per quello che è stato arrestato. Poi dopo è venuto fuori il fatto che fosse ebreo. E in questa voce che ci ha colpito c'è proprio questo legame fra Primo Levi e la resistenza. Un legame che per lui era molto importante, tanto che nel padiglione di Auschwitz, il padiglione italiano, aveva inserito un forte legame fra queste due dimensioni. Per cui, ricordandovi di leggere Primo Levi, vi invitiamo a visitare il sito Doppio Zero per scoprire il dizionario Primo Levi. E ora musica. Camelot for Jack and Jacqueline, but on the Che Guevara highway, filling up with gasoline. Fidel Castro's brother spies a rich lady who's crying over the luxury's disappointment, so he walks over and he's trying to sympathize with her, but he thinks that he should warn her that the third world is just around the corner. In the Soviet Union, a scientist is blinded by the resumption of nuclear testing, and he is reminded that Dr. Robert Oppenheimer's optimism fell at the first hurdle. Cheese pavilion, and the only noise I hear is the sound of someone stacking chairs and mopping up spilled beer, and someone asking questions and basking in the light at the 15 fame-filled minutes of the fanzine writer. In pop and politics, he asks me what the use is. I offer him embarrassment for my usual excuses, while looking down the corridor out to where the van is waiting. I'm looking for the great leap forward. Sales are organized and pamphlets have been posted. Even after closing time, there's still parties to be hosted. You can be active with the activists or sleeping with the sleepers while you're waiting for the great leap forward. One leap forward, two leaps back. Will politics get me the sack? Waiting for the great leap forward. For the pots to throw in a towel, you're waiting for the right leap forward. If no one out there understands, just start your own revolution and cut out the middle man. Waiting for the right leap forward. A perfect world, we're all singing tune, but this is reality, so give us a run. Waiting for the right leap forward. So join us, brother. Chicago, while you might, the revolution is just a t-shirt away. Bentornati su Un Vallone, sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Siete qui nella vostra mezz'ora di storia e come da tradizione, nella puntata prima delle vacanze di Natale, vi diamo alcuni suggerimenti sulle vostre letture da fare durante le vacanze invernali e, perché no, per avere qualche argomento di dibattito durante i cenoni di Natale e di Capodanno. Infatti oggi parleremo di Piazza Fontana, estrema destra, aborto, tutti argomenti delicatissimi. Per cui farete un figurone, esatto, a tavola, come ammazzare le conversazioni in, esatto, due secondi. Vedi, consigliamo allegramente, sperando che alla vostra tavola ci sia lo zio salviniano antiabortista e cattolico. Bene, è un rischio presente, esatto, oramai. Qui sono io, Debs e Frey, ma come sapete in redazione ci stanno anche Olli e Priscilla, che oggi non sono qui con noi, ma che ci hanno mandato i loro suggerimenti. Passiamo quindi ai suggerimenti di Olli, che ci suggerisce un libro che si chiama Colonnelli, il regime militare greco e la strategia del terrore in Italia, di Dimitri Degliolanes, edito da Fandango Libri proprio nel 2019. Allora, Degliolanes non è uno storico, ma è un giornalista, e con piglio giornalistico ci trascina in una storia di cui noi di Vallù non abbiamo ancora mai parlato. La dittatura dei colonnelli, che prendono il potere in Grecia con un clamoroso colpo di Stato il 21 aprile 1967. Un golpe proprio nel bel mezzo dell'Occidente. Come si è arrivati a tutto ciò? Assalti squadristici, brogli elettorali, assassini politici, attacchi terroristici e stragi civili. Questi sono i meccanismi di governo nella Grecia degli anni 50 e 60. Una vera e propria strategia della tensione, in cui vediamo spuntare anche un noto protagonista, ovvero i gruppi di estrema destra italiani, che, manca dirlo, vanno a braccetto con quelli greci. Molti degli elementi che ritroveremo poi anche nel nostro paese erano già riuniti: l'attivismo dell'estrema destra, le pulsioni conservatrici in seno alle forze armate, la particolare attenzione rivolta al paese da parte dell'intelligence statunitense. L'ombra degli apparati greci sarebbe poi emersa nelle indagini su Piazza Fontana e del golpe borghese. L'altro testo suggerito dalla nostra Olli è sempre un libro che parla appunto della galassia della destra, sempre in ambiente mediterraneo, o meglio proprio a casa. Ovvero, il libro si intitola La genesi del neofascismo in Italia ed è un libro uscito da poco per Le Monnier, nella collana Quaderni di Storia, a firma Nicola Tonietto. Questo libro analizza le dinamiche e i protagonisti del neofascismo italiano nei suoi primi anni di vita, a partire dai piccoli gruppi che si formano nel sud Italia, occupato dagli alleati, per passare poi alla nascita del movimento sociale italiano e alla piena legittimazione acquisita all'interno del panorama politico del dopoguerra. Grazie alla ricca documentazione d'archivio, italiana e straniera, la ricerca prosegue i percorsi e le reti di chi si muove nell'eredità fascista. Tra questi, importantissima la questione di Trieste, non solo simbolo ma anche terreno di lotta per il partito tra la fine degli anni 40 e la prima degli anni 50. Allora, passiamo finalmente ad un altro argomento, ci tuffiamo veramente nel passato, qui con il consiglio di Priscilla, che ci propone un classico della storiografia, che, su cui quasi tutti ci si sono fatti le ossa studiando storia, il sottoscritto no, in realtà. Il libro, che questo potrebbe essere veramente da cogliere, è naturalmente Il formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg, che è uscito in una bellissima nuova edizione della Delphi, con un sottotitolo che ci rende chiaro subito di cosa si sta parlando: Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento. La storia è quella di Domenico Scandella, detto Menocchio, che è un caso limite, fra virgolette, del Cinquecento. È un contadino, certo, ma un mugnaio, ma non è allo stesso un semplice contadino, perché è un contadino che ha la possibilità di leggere e di scrivere. perché interessarsi alla vita di Domenico Menocchio, a quello che scrive? Perché all'interno dei suoi testi, che sono stati rintracciati all'interno degli archivi della repressione, i tribunali ecclesiastici all'epoca erano il braccio della repressione, diciamo, si ha la possibilità di cogliere quello che era l'universo di Menocchio, fatto di tradizione contadina orale, quasi ancestrale, con incontri con libri provenienti dalle classi colte, in cui passa il vento del Rinascimento e il terremoto della Riforma protestante. Questo libro è un grande classico, non solo perché racconta una nuova maniera di fare storia, che era la microstoria, ma anche perché insegna una maniera con cui la storia deve essere scritta, che è una maniera fatta di scoperta, di semplicità della parola e di lettura, una lettura che è veramente piacevole, cosa questa qui rara nei libri di storia che Carl Ginzburg però ha saputo mettere da maestro all'opera oramai qualche anno fa. Bene Frey, prima di passare all'ultimo libro, mandiamo in onda un pezzo musicale. Sì, siamo sempre con Billy Bragg, stiamo scoprendo la sua opera sull'arco di 30 anni di attività e ci sentiamo adesso quello che è il suo grande classico, The Power Is the Union, cioè il riferimento all'inno delle lotte dei minatori, che continua a essere un monito per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Il potere è nel sindacato, ma anche nell'unione. E anche questo argomento di dibattito per il Cianone. We must fight for, from the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the bosses' wiser. Just laws cannot defeat us, but who'll defend the workers who cannot organize, when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. Ben ritrovate, ben ritrovati su Vallun, la vostra mezz'ora di storia. Passiamo all'ultimo libro che vi presentiamo prima di lasciarvi per le vacanze di Natale. Passiamo a un romanzo che parla però di un argomento storico. Il libro è L'Evento di Annie Ernaux, pubblicato poco tempo fa, fine 2019, per l'Orme Editore. Annie Ernaux è un'importantissima scrittrice francese e in questo racconto lungo, più che romanzo mi verrebbe da dire, e ci tengo a sottolineare che è un racconto lungo perché a me i racconti piacciono moltissimo, In questo racconto lungo ci racconta una sua esperienza di vita che diventa però un passaggio storico importantissimo per la storia non solo della Francia ma di tutte le donne francesi. Infatti ci racconta la sua vicenda del suo aborto clandestino fatto in Francia nel 1963, quando ancora, come in tanti altri paesi dell'Europa, abortire era un reato. Con un uso direi delicatissimo ed elegantissimo della memoria e della narrazione, ci viene presentata questa studentessa di lettere che percorre tutto una strada fatta di incontri e di avventure e passaggi molto precisi che alla fine la porteranno ad avere un aborto clandestino, ma comunque un aborto, cioè proprio quello che lei voleva. Inizio col dire che le narrazioni sull'aborto, quelle clandestino e non solo, anche quando comunque è diventato legale, almeno in Italia, le narrazioni sono sempre tragiche, sono sempre dolorose, sono sempre tristi, è sempre una cosa che si poteva evitare, ma in realtà sappiamo benissimo, e probabilmente l'avete anche imparato ascoltando Van Loon, che in realtà l'aborto può essere un'esperienza positiva, liberatoria, un'esperienza emancipante e determinante per le donne che appunto fanno del proprio corpo ciò che vogliono. In questa narrazione, con tanti passaggi, c'è una sottile malinconia che non esplode mai in una vera e propria disperazione angosciosa, ma ce la portiamo dietro, ed è l'irrequietezza di questa giovane donna che comunque non ha tanti alleati con lei per affrontare un aborto clandestino. Incontra delle persone, incontra dei medici, le compagne di corso, amanti e così via, ma alla fine è sempre sola e ha sempre paura di non farcela. Ma nonostante ciò la narrazione prosegue passo per passo, è una narrazione lucida, quasi razionale, nonostante tocchi dei passaggi molto intimi, molto anche dolorosi, come le trasformazioni che subisce il corpo, perché insomma fare un aborto clandestino non era una passeggiata e non era come andare a fare la Sant'Orsola, se è ben chiaro. Alcune cose sono anche molto crudeli, ma questa narrazione è comunque determinata, si vuole arrivare alla fine. E quindi c'è questo mix tra la volontà di arrivare a una conclusione, ma allo stesso tempo questa sofferenza, data però dallo Stato che non permette di abortire e da un forte tabù, un forte stigma che c'è attorno all'aborto. C'è ancora adesso, figuratevi nella Francia del 63 quando era illegale. Tornando alla questione della narrazione, vorrei sottolineare che IBS, che è un grande venditore di libri online e non solo, tra le prime parole che usa per l'abstract di questo libro usa la parola doloroso. Bene, questo libro di doloroso c'ha alcune parti, sì, ma direi che tutto il tono di questo libro in realtà è una piccola, lenta, ma costante camminata, passeggiata verso qualcosa che è comunque una vittoria. Tant'è che alla fine del libro Annie Ernaux mette la parola morte e vita vicine molto spesso, perché è proprio il momento in cui la protagonista riesce ad arrivare al compimento del suo aborto. Un'altra cosa che vorrei sottolineare di questo libro sono le incursioni della scrittrice scrivente, cioè di lei adulta che sta scrivendo questo libro. Cioè a un certo punto la narrazione si ferma e c'è lei che interviene come scrittrice e fa delle piccole riflessioni. Tendenzialmente è uno scamotage che a me non piace, ma devo dire che in questo libro mi è piaciuto molto e penso che mi sia piaciuto perché quando in questi racconti femminili o di storie che raccontano di donne che hanno attraversato un'esperienza quotidiana ma che in realtà è un'esperienza universale, è come se ci fosse è come se il passato un po' si annullasse. Sembra un po' antistorico dirlo, ma in realtà quello che vorrei che si capisse è che sembra una storia non così lontana e che quella memoria, così come si è fossilizzata nella scrittrice, è fossilizzata probabilmente anche in un senso comune di molte donne che hanno lottato per l'aborto prima, hanno abortito clandestinamente e tuttora si trovano a fare i conti con un senso comune reazionario. Insomma, è un ottimo uso della memoria e della narrazione. Mi è piaciuto molto, anche perché come ho detto prima è un racconto e quindi ve lo consiglio. Il tempo a nostra disposizione naturalmente sta scorrendo. Ringrazio veramente Debs per questa bellissima recensione che ha fatto del libro di Annie Ernaux, L'evento, veramente molto bella, ha centrato molto il punto. Volevo giusto, nel salutarvi, volevo darvi un ultimo suggerimento. Vallun sostiene tutte le realtà indipendenti, naturalmente fra queste anche la nostra stampa indipendente, per cui vi suggerisco di andare a recuperare il numero di novembre di Rivista Anarchica, perché c'è uno speciale dedicato a Giuseppe Pinelli, molto molto bello devo dire. In particolare ho apprezzato tanto l'articolo di Paolo Finzi, che ripercorre il suo rapporto con Pinelli nell'articolo Il mio Pino, e il bellissimo intervento naturalmente ripubblicato di Franco Fortini, uno dei nostri ultimi grandi poeti politici. Con questo direi che ci avviamo verso la fine, abbiamo un ultimo suggerimento da parte di Debs, intanto buone feste da Frey e vai Debs. Bene, sì, aggiungo solo due suggerimenti, che ovvero due suggerimenti musicali. Anche questi molto natalizi. Molto natalizi, che ci piace ricordarli perché sono un po' locali, ovvero suggeriamo il nuovo disco del gruppo Zeman, Sunday Boys, prodotto dal Nation, etichetta a noi molto amica, e il nuovo album di Guerra, che si chiama Guerra, prodotto con varie collaborazioni come Grande Attitudine Punk. Facciamo gli auguri anche a tutti e tutte quelle che lavoreranno durante le vacanze di Natale. E naturalmente anche a tutti e tutte i detenuti e le detenute che si trovano lontani dalla loro casa, dai loro affetti. Speriamo che siano liberi presto, sia dal lavoro che da chi lavora, sia i detenuti e le detenute da tutte le prigioni. Ci risentiamo nel 2020, ciao! Ciao!